Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ma che cos'è questo fair play finanziario alla fine? Vogliamo provare a capirlo una volta per tutte e soprattutto vogliamo capire a che punto è arrivato. Ci aiuta tra poco Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore all'indomani di una riunione che si è tenuta ieri a Nyon nella sede dell'UEFA, da cui sono emerse cifre davvero impressionanti. Cifre debitorie, intendo. Giusto il tempo prima di segnalare e di ricordare, di ascoltare qualche testimonianza su questa semifinale di Coppa, su questo quarto di finale di Coppa Italia che il Napoli ha meritatamente vinto contro l'Inter, mentre non è altrettanto equo, a parer mio, il verdetto del Camp Nou, perché per la prima volta da anni a questa parte avrebbe meritato, e direi anche abbastanza largamente, di passare il turno il Real Madrid. Ci sono analogie tra l'una e l'altra partita, al di là della qualità dello spettacolo che è stata imparagonabile, direi, no? Per quello che si è visto su un campo e sull'altro, ma ci sono analogie sia su episodi che anche sull'impostazione di queste partite, ripeto, pur tenendo conto delle diverse categorie. Allora, cominciamo subito da Mazzarri, che commenta la vittoria napoletana. Ha fatto una grande gara, di aver fatto un bel primo tempo, una squadra in forma, non scordiamo che l'Inter, al di là dei valori che ha in rosa, è in un momento felicissimo. Questo la dice lunga sull'impresa che abbiamo fatto anche questa sera. Rispetto all'anno scorso ci sono mancati gli episodi, ma da un punto di vista del gioco, delle occasioni fatte, dalla bellezza anche del gioco, sia con le piccole che con le grandi, io sono sempre contento di quello che sta facendo questa squadra. Soprattutto in Coppa, aggiungerei, no? Mi sembra che abbia confermato ieri sera il Napoli di essere squadra più da Coppa che da campionato, più da partita secca o da partita doppia, insomma, che non da lungo cammino, perché quello di ieri sera era uno spareggio, insomma, si scriveva quarto di finale, ma in realtà si leggeva con buona probabilità libero accesso alla finale, visto che la semifinale sarà un incrocio con il Siena, che ha vinto sul campo del Chievo. Ora, con tutto rispetto per il Siena o per il Chievo se fosse passato, è ovvio che sia Napoli che Inter sarebbero state e saranno, e sarà il Napoli favorita nel confronto diretto per giocarsi poi la finale contro Juventus o vedremo se Milan, Juventus se o Milan o Lazio. Tra poco arriveremo anche a questa vigilia. Sentiamo prima il commento di Ranieri. Delusione c'è nel risultato. Abbiamo fatto una buonissima gara contro un buon Napoli e c'erano due rigori, uno è stato dato, uno non è stato dato. Peccato perché avremmo meritato qualcosina di più, però il calcio è questo. Domenica sera non avevamo fatto una gran partita e abbiamo vinto, stasera abbiamo fatto una gran partita e abbiamo perso. Il calcio è questo e bisogna accettarlo. Ma insomma, una gran partita in reazione nel secondo tempo, soltanto quando ormai l'Inter era sotto, perché per il primo tempo intero davvero l'Inter se ne è vista molta, ma molto poca, si sono viste più che altro le intemperanze di Sneijder. E quando si parla di... È come Mourinho, cioè la similitudine di Ranieri con Mourinho lo so che non gli torna ad onore, però è successa la stessa cosa. Nel secondo tempo di Barcellona, del Camp Nou, indubbiamente l'arbitro è stato un po' persecutorio con Real, ma è anche vero che il primo grave errore l'ha commesso nel primo tempo, non espellendo Diarra per il secondo fallo nettamente da ammonizione nel finale di tempo, e Celia a Napoli ha fatto la stessa cosa, che impossibile da non vedere il fallaccio di Sneijder su Gargano nel finale di tempo, una timbrata sulla tibia, perché che Gargano ha salvato per miracolo, quello è tutta la vita cartellino rosso e tre giornate, pensate che l'arbitro ha dato palla a due, perché si erano poi levate discussioni, perché Gargano era rimasto a terra, eccetera. Io credo che quando un arbitro commette un errore così grave, avendo oltretutto l'episodio nel suo raggio visivo a pochi metri, ci sia da dubitare seriamente delle sue qualità, non di altro, per l'amor di Dio, ma delle sue qualità temo proprio di sì. La vigilia delle partite di stasera, Reja ci riprova a distanza di 4 giorni dal tentativo che ha fatto domenica con l'Inter, sfortunato. Vediamo se gli va meglio stasera, sentiamo. Beh, diciamo, le competizioni sono tutte importanti, perché una squadra come la Lazio deve fare sempre il meglio possibile e schierare possibilmente la migliore formazione, perché noi abbiamo il dovere di giocare tutte le partite e cercare di vincerle. Questo deve essere il nostro obiettivo, come la Coppa Italia, che poi tra l'altro mi sembra che la Lazio abbia anche tradizioni favorevoli, no? Sotto un certo punto di vista. E allora abbiamo qualche problema, qualche acciacchino c'è, però penso che siano tutti rimediabili. Vedremo la miglior Lazio possibile. Ci sarà spazio più avanti anche per i vostri interventi, ovviamente a commento di quanto accaduto a Napoli, di quanto accaduto a Barcellona e di quant'altro ancora vorrete, come sempre, anche se io credo che la maggior parte invece degli interventi vostri sarà proprio sull'argomento del giorno, che riguarda appunto il fair play finanziario, o cosiddetto tale, o comunque l'evoluzione o temo l'involuzione di questa riforma, che pure sarebbe così decisiva per la salute del calcio italiano, europeo e mondiale. C'è ancora da ascoltare la vigilia di Allegri, che è a metà, che è sospesa, no? tra Coppa Italia e arrivi e partenze, più arrivi che partenze. La società sa benissimo cosa deve fare, quindi sono sereno per questo. Come lo è stato fino ad ora, in un anno e mezzo, credo che mi abbiano preso diversi giocatori, diversi campioni, quindi sono molto sereno e fortunato anche. Abbiamo il dovere di cercare di passare il turno per arrivare in semifinale, perché è un obiettivo della stagione. Quando si giocano le partite si giocano sempre per vincere. Non è vero che ci sono partite che contano e non contano, le partite contano tutte, perché dopo, quando esci sconfitto dal campo, te le trascini dietro. E direi di cominciare a introdurre il tema del fair play finanziario. Tra poco ci raggiunge in studio Marco Bellinazzo, subito dopo l'intervallo, con una dichiarazione di Gianni Infantino. Gianni Infantino è un italiano che è il segretario generale dell'UEFA e quindi un importante, un grande dirigente europeo, insomma, che riassume un pochino quale sarebbe il momento. È l'ora della sveglia, chi non l'ha capito ancora è bene che lo capisca, è bene che si svegli. Inizia il fair play finanziario, è iniziato già da un po' di tempo. Le cifre che vediamo ancora oggi sono effettivamente preoccupanti, e dunque bisogna fare qualcosa per risanare il sistema, e il fair play finanziario è sicuramente la ricetta che abbiamo concordato insieme ai club e che mettiamo in pratica adesso. Beh, è l'ora della sveglia, sì. Pensate soltanto a questi due numeri. Le perdite del calcio europeo nel 2006 ammontavano a 216 milioni di euro. Le perdite del calcio europeo nel 2010, quelle annunciate ieri, gli ultimi bilanci disponibili, ammontano a 1.641 miliardi di euro. Siamo quasi a 8 volte tanto, 7 volte e mezzo tanto in 4 anni. È chiaro che si sta andando al disastro. E dato che già l'Europa va salvata, ammesso che poi ci si riesca davvero nella sua economia globale, si potrebbe provare, no, a salvare prima perlomeno quella calcistica, con un po' meno di lacrime e sangue, un po' più di buona volontà attuale, anche meno sceicchi volendo. Tra poco con Marco Bellinazzo. Vi ho detto un numero prima, che forse almeno per me è il più impressionante di tutto. Ripeto, le perdite del calcio europeo 216 milioni di euro nel 2006, 1.641 milioni di euro. E sono strabilianti queste cifre, quindi si fa anche fatica a star dietro. Caro Marco, aiutami tu ad orientarmi, perché in effetti sono cifre talmente mostruose. Beh, non per prenderci dei meriti, Gigi, ma noi qui c'eravamo già svegliati, insomma, ascoltando le parole dell'appello di Infantino. Assolutamente. E i numeri sono quelli che sono stati ricordati in questa relazione presentata ieri a Nyon dalla UEFA. E sono numeri che certificano un livello, diciamo, di deficit che cresce di anno in anno, nonostante i richiami del fair play, che finora erano, come dire, informali o comunque amichevoli, mentre dai prossimi bilanci cominceranno a diventare invece qualcosa di molto più serio, e la riunione di ieri è servita a questo, insomma, appunto a dare la sveglia al calcio europeo e a certi club che continuano a spendere e espandere come se nulla fosse. Partiamo proprio da quelli. L'UEFA non ha fatto nomi, ma ha parlato di 13 club che non stanno rispettando il fair play finanziario e che se il fair play finanziario, ho voluto fare un 13 esempi, no? Nel 2014-2015 si presentassero con questo genere di bilanci e di passivi, verrebbero esclusi dalle coppe europee. Sì, giustamente la UEFA non ha fatto nomi perché sarebbe anche non corretto valutare l'operato di certi club quando hanno agito con regole diverse da quelle che imporrà invece il fair play. Teniamo conto tra l'altro che questi bilanci sono quelli, come ricordavi tu, del 2010. Quindi non ci sono le perdite per esempio registrate nell'ultimo bilancio 2011 dalla Juventus, 90 milioni, dall'Inter 86, dal Milan più o meno saremo in quell'ordine rosso di deficit. Quindi paradossalmente la situazione l'anno prossimo potrebbe essere ancora peggiore, perlomeno per quanto riguarda i club italiani. Molto probabilmente lo sarà. E comincia a essere significativo perché se i 90 milioni di quest'anno di Juve Inter non entrano nel calcolo del triennio, che comincia con i bilanci che si chiuderanno alla fine di questa stagione, dal prossimo anno invece quel parametro dei 45 milioni in tre anni dovrà essere considerato. Per cui i club che sforeranno e quindi nel triennio avranno un deficit superiore a 45 milioni, ecco che a partire dalla stagione 2014-2015 potranno vedersi applicate le sanzioni, che vanno da semplici pene pecuniarie nei casi più lievi, addirittura poi la possibilità di essere esclusi dalle coppe. E la UEFA si sta già preoccupando peraltro i possibili ricorsi, perché ovviamente fatte le regole iniziano le cause, e quindi si sta studiando ora quale dovrà essere la procedura per opporsi a eventuali sanzioni. Sta di fatto poi che ieri non è passata una proposta che pure era stato oggetto di discussione, cioè quella di prevedere da parte del panel di controllo della UEFA la possibilità di fare dei richiami nel corso del triennio, dei richiami formali, vale a dire se una società già al primo anno ha meno 90 di deficit, è chiaro che si voleva dare la possibilità alla UEFA già di chiedere, come dire, un piano di rientro. Questa possibilità formale, insomma, è stata un po' accantonata. Sta di fatto che per quelle società più riottose a mettersi in regola ci sarà, insomma, un richiamo verbale nel primo anno, nel secondo, e una sanzione ancora maggiore nel terzo anno se non si adegueranno. Beh, questa è, mi pare, la principale domanda che il pubblico si fa, no? Lo ricavo anche dai messaggi che stanno arrivando in tempo reale, l'ultimo di Giovanni Tolfo da Bassano del Grappa, che parla per esempio di mercati estivi di Real e di Barça e del fatto che gli scappi leggermente da ridere quando sente questi discorsi. Allora, ricordiamo che per ora il fair play finanziario è, non dico una pia intenzione, ma è un'iniziativa. Il primo anno che verrà esaminato dei tre che serviranno a stabilire questa cosa è quello in corso. In pratica dal calciomercato della scorsa stagione, che è iniziato a luglio, luglio 2011, e quindi il bilancio viene chiuso a giugno 2013, per cui le spese fatte nell'ultimo mercato estivo, oltre che in quello di gennaio, incidono e contano. Incideranno. Perfetto, allora io faccio l'avvocato del diavolo, mi metto nei panni appunto di questi ascoltatori che sono scettici, non l'avvocato del diavolo, faccio lo scettico blu in questo caso, e dico... ma il PSG, ne dico una a caso, no? Che tra l'altro integra anche, ho letto in questi giorni, un piccolissimo caso di conflitto di interessi, perché il figlio di Michel Platini, Laurent, avvocato, lavora, non direttamente, ma insomma con il suo studio, è consulente anche del Paris Saint-Germain da un punto di vista finanziario. Gli sceicchi del Paris Saint-Germain, gli sceicchi del Manchester City, diciamo le due a caso, lasciamo stare gli sceicchi italiani per il momento, a cui ha fatto cenno ieri Platini con una battuta, come c'entrano, che ci azzeccano con questo fair play? Finora hanno potuto finanziare a piacimento i club. Tra l'altro, nel rapporto, intanto magari citiamo qualche numero, nel rapporto della UEFA si evidenzia come negli ultimi 5 anni le perdite del calcio europeo siano ammontate a quasi 4 miliardi di euro e ci siano state ricapitalizzazioni per 3,4 miliardi. Ecco, queste iniezioni di liquidità, per usare un linguaggio mutuato dal sistema bancario, non potranno più esserci. Per cui dall'anno prossimo, e quindi con le spese che stanno facendo, i sceicchi dovranno in qualche modo contenersi. Quindi se quest'anno per esempio hanno fatto spese per cui il bilancio della squadra parigina o del City sarà come dire in rosso per 90 milioni, per 100 milioni, l'ultimo era in rosso per 200 milioni, quello del City, dovranno iniziare un piano di rientro e quindi far sì che nei due anni successivi ci siano utili tali per cui il massimo di rosso consentito rientri sotto l'asticella dei 45 milioni. 45 milioni di euro. 45 milioni di euro, leggo esattamente quale sarà il tetto. Un proprietario non potrà coprire anche a titolo personale più di 45 milioni di euro di disavanzo ogni anno, cifra che scenderà progressivamente a 30 milioni se non per investimenti su infrastrutture, settore giovanile o programmi sociali. Esattamente, questo è il quadro delle spese in qualche modo tollerate dalla UEFA. Ora, è bellissimo, tutto sta a crederci, no? Però c'è Gigi, una grande volontà da parte dei principali club europei. Questa è la vera forza dei fair play finanziari, non tanto che sia la bandiera con cui Platini sta cavalcando trionfalmente verso la presidenza della FIFA, ma è voluta da grandi club, ed è voluta dai grandi club storici, i nobili del calcio europeo, perché permette loro, come dire, di cristallizzare in qualche modo la situazione. Certo. Per cui se io sono il Real Madrid e ho un fatturato di oltre 400 milioni, e perché, come dire, ho i soldi per pagare i grandi campioni che mi permettono di vincere, io potrò tranquillamente continuare a stipendiare in questo modo i top players europei. Certo. Perché ho quel tipo di fatturato e quel tipo di entrate, quindi basta che io faccia zero in bilancio. Viceversa, un club che ha un fatturato di 100 milioni avrà molto più difficoltà a vincere, cioè ad acquistare quei campioni, perché evidentemente non può stipendiarli adeguatamente. Questo è il principio. Questo è il principio, se vuoi anche grande limite del fair play, però è quella barriera alle perdite che anche ieri la D dell'Inter, Paolillo, ha indicato come un elemento che può permettere di attirare anche investitori che in questo momento non scenderebbero mai nel terreno del football, ecco. Prima, sentiremo proprio un contributo vocale di Paolillo, che rappresentava in un certo senso ieri le società italiane a questa riunione. Tra l'altro ha detto una cosa lusinghiera sulla Juventus, no? A proposito di stadi di proprietà. Anzi, la sentirei subito. Sentiamo Paolillo a proposito di stadi. La prima fonte di ricavo per le società italiane oggi sono i diritti televisivi, ma se andiamo a prendere la società inglese e la società spagnola, la prima fonte di ricavo sono gli stati che con la loro gestione permettono di avere durante la settimana 6 eventi ai quali si aggiunge il settimo, che è quello della partita, e quindi differenti forme di ricavo. Lo stadio ben utilizzato, scusa, andava avanti, arrivava il riferimento alla ben utilizzato e tutto, insomma, la Juventus è l'unica squadra che per una serie di condizioni è riuscita a fare questo investimento. Chiaramente è un investimento che nel medio e lungo termine potrà portare benefici significativi, nel breve termine può portare un incremento di fatturato di 20-25 milioni, insomma, che equivale a una partecipazione alla Champions. Sarà pur sempre in vantaggio rispetto alle altre società che invece sono ancora in altissimo assolutamente mare, no? Però la Juventus non a caso per questi investimenti e per altri magari sbagliati in calciatori del passato si è ritrovato con il rosso più ampio della sua storia, certo, e la necessità, diciamo, di non solo vincere il campionato, ma di l'anno prossimo di fare una bella Champions per avere introiti tali da ridurre questo deficit. Per cui quando Conte appunto nei giorni scorsi ha dichiarato che lui non firmerebbe mai per un terzo posto qualcosa di meno, lo fa anche diciamo facendo trapelare una necessità, voglio dire, economica del club di arrivare quantomeno, ripeto, in zona Champions. Certo. Qualche intervento del pubblico sintetico, prego. Giuliano Grosseto buongiorno, glielo ridiremo dopo perché è caduta la linea. Velocemente Marcello Como, buongiorno. Sì, pronto. Dica. Buongiorno. Senta, io a riguardo il discorso del sesto finanziario economico per il calcio, vorrei dire anche una parola per le categorie inferiori in cui io, vabbè, alleno, eccetera. E sento, e spesso capita durante il campionato, che parecchie società di serie D magari, oppure eccellenza, siano costrette magari a Natale a ritirarsi per mancanza di soldi. Ma io credo che, e questo sia dato per, da come dire, una programmazione erronea rispetto alle spese che si debbono affrontare anche per questi campionati. Lei che è un esperto, cosa ne pensa? L'esperto o per può magari realtà... consigliarmi magari. Beh, c'è poco da consigliare, guarda. C'è che il calcio italiano fa il passo più lungo della gamba ad ogni livello, dalla prima squadra dilettantistica in basso alla prima squadra professionistica in alto, Mario. Sì, questo è un cattivo costume sul numero eccessivo di squadre professionistiche in Italia, certo. Ci siamo dilungati spesso in passato. C'è una buona notizia però per il calcio, diciamo, delle serie inferiori, è che l'ultima riunione della Lega è stato approvato, diciamo, il piano di mutualità, per cui una quota dei diritti TV dovrebbe essere sui 100 milioni all'anno, insomma, andrà a questo fondo di mutualità che riguarda Lega Pro e serie inferiori, e queste, insomma, sono circa 198 milioni in un biennio, insomma, quindi arriverà un po' d'ossigeno. L'importante sarà farne buon uso, cosa che in passato non è praticamente mai accaduta. Torniamo a parlare di calcio e di fair play finanziario. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, tu che non hai display rivolti verso di te, non hai idea del numero di messaggi, di mail, di telefonate, eccetera, e questa cosa direi che ci fa particolarmente piacere, perché questo è stato in assoluto il primo programma radio televisivo, io credo, ad applicare questa materia, cioè a trattare questa materia apparentemente così ostica, apparentemente così lontana dalla passione per il calcio, che invece, no? Con cui invece bisogna ormai fare i conti, e altri hanno seguito, e ci fa molto piacere questo esempio. Una mail firmata Giuseppe Di Girolamo, claims specialist, risk management consulting, insomma uno del mestiere. Poniamo che una tra queste squadre tipo Barcellona, Real, Manchester non sia in regola col fair play finanziario. Secondo voi, realisticamente, verrà escluso davvero a un certo punto dalle coppe, oppure verrà introdotto una sorta di deficit tollerato e la norma verrà davvero applicata col Fenerbahce, col Celtic, eccetera? Non è male come domanda, io però so già cosa gli rispondo. C'è la ferma volontà di applicarla, e quindi anche a Barcellona si applicherà, ma io credo che il Barcellona, per come messo, non avrà bisogno di ricorrere a extra deficit per finanziarsi. Insomma, il Barcellona ha oltre 400 milioni di fatturato, una certo. Cantera illimitata, insomma gli basterebbe vendere un paio di giovani all'anno colmare eventuali gap, insomma. Parliamo di costo, parliamo di ingaggi o contratti, o come preferisci, cioè parliamo di costo del lavoro. Di nuovo qualche numero, almeno quelli che ho io. La media europea del costo del lavoro è intorno al 64%, l'Italia è al 74%, così come la Francia, la Germania, che è il caso più virtuoso, è al 51%. Esistono paesi, e qui ti fanno venire in mente per forza, no, la Grecia o il Portogallo di qualche tempo fa, Olivia. Esistono i casi tipo Croazia, 119%, Serbia, 112%, Georgia, 102%. Sono 78 i club che dedicano oltre il 100% dei propri introiti agli stipendi. Insomma, pagare gli stipendi, penso a tanti club russi che non hanno certamente ricavi importanti. I numeri sono questi, sono molto significativi, anche perché, qui c'è una buona notizia, per la prima volta, fa notare la relazione, parliamo, ripeto, sempre del 2010, poi dovremo vedere nel 2011 cosa è accaduto, il costo medio degli ingaggi pagati dai club europei si è fermato, non è cresciuto, si è fermato al 64%. A pesare sul deficit, a causare il deficit, nel 2010 è stato, ci dicono gli analisti della UEFA, il ridimensionamento del calciomercato, per cui ci sono stati affari minori rispetto al 2009 per circa 400 milioni. In realtà il calcio ha prodotto ricavi per circa 13,4 miliardi, in crescita del 7% rispetto al diciamo all'anno precedente, il deficit, come abbiamo visto, invece è cresciuto di oltre il 30%. Cioè, è ancora molto più allarmante. Certo, il problema qual è? Che quella percentuale si è fermata, ma non basta che si fermi, deve ulteriormente scendere. Ha quella cifra virtuosa, il 51% della Bundesliga, che guarda caso è la percentuale sulla quale qualche mese fa negli Stati Uniti, nella NBA, nella tanto declamata NBA, si sono messi d'accordo franchigie e giocatori sulla ripartizione degli introiti, che ammontano a oltre 4 miliardi di dollari. Fatto sta che prima col precedente contratto collettivo cestisti ottenevano il 57% degli introiti, con il nuovo accordo, quello che ha permesso di sbloccare il lockout, insomma, e la serrata o sciopero che dir si voglia, che è stato attuato fino a Natale, si è tornati appunto alla percentuale del 51%. 51% quindi ai cestisti, 49% ai proprietari. Questo ha permesso ai proprietari di colmare il deficit che avevano subito nella precedente stagione di circa 300 milioni, perché ogni punto percentuale sono 40 milioni di dollari, visto l'ammontare. In Italia non siamo al 64%, al 51% non so quando ci arriveremo, siamo ben oltre al 74%, in alcuni casi i top club arrivano anche all'80-90% del proprio fatturato devoluto, mi viene da dire, in stipendi ai calciatori. È chiaro che questa percentuale è insostenibile, tenuto conto anche di come sono bloccati i ricavi dei club della penisola, e quindi evidentemente è lì che si deve andare ad incidere. Molte società lo stanno facendo, chi è appassionato di calcio e segue in questi giorni il calciomercato si sta accorgendo di come insomma tutte le operazioni sono fondamentalmente al risparmio. Anche la telenovela Milan Tevez è basata su questo principio. Gallerni è stato bravissimo 2 anni fa a portare Ibrahimovic a Milano per 25 milioni e pagandolo a rate. È stato bravissimo, insomma, con altre operazioni l'anno scorso. Questa volta lo sceicco si è arrabbiato, insomma, i sceicchi sono molto permalosi, quelli veri. E quindi, insomma, vedremo come finirà questa telenovela. Tra l'altro il City sta pensando anche a fare causa a Tevez per il suo ammutinamento, e gli vuole fare causa per 12 milioni di euro, che è la differenza tra quanto era stato offerto dal Corinthians l'anno scorso e quanto ora, insomma, potrebbe guadagnare il City vendendolo, circa 25 milioni. Vedremo come finirà, insomma. Fatto sta che certi personaggi o certi ingaggi di una volta, insomma, sono un miraggio ormai per il calcio italiano. Guarda, qualche minuto fa Maria da Milano aveva scritto: cosa si intende per costo del lavoro? Io penso che adesso sia già un pochino più chiaro, e comunque, signora, ci perdoni, sì, perché costo del lavoro applicato agli ingaggi e ai contratti del calcio è una pessima maniera di esprimersi, però insomma, diciamo che per i compensi dei calciatori, chiamiamoli, viene usata per analogia rispetto al stipendio, mi sembra anche forzato, è offensivo anche stipendio, no, visti i momenti che attraversiamo, non c'è dubbio. Abbiamo recuperato Giuliano da Grosseto, buongiorno. Buongiorno, dica. Ci fermiamo un attimo. Dunque, adesso abbiamo sentito la borsa e negli aggiornamenti di borsa i titoli finanziari vanno benissimo, sul presupposto che probabilmente c'è una voce che non si applicherà a Basilea 3. Non è casuale questo, ovviamente, perché alla fine anche le società di calcio potrebbero decidere di fare una sorta di disapplicazione congiunta, addirittura minando lo stesso principio della Federazione Internazionale. Ah, non c'è dubbio su questo. Infatti qualcuno l'ha già anche affacciata come minaccia. Beh, il timore che i top club possano staccarsi e farsi la propria lega c'è sempre, viene come dire, sempre paventato. Tant'è vero che la stessa UEFA, come abbiamo detto all'inizio, sta individuando quale dovrà essere la procedura per eventuali ricorsi in caso di sanzioni, proprio per evitare che si finisca come nel caso Sion alla giustizia ordinaria e si apra, voglio dire, un ginepraio giuridico che può soltanto far male al calcio. Quello che ieri si è capito, e ieri è stato questo, insomma, il motivo centrale della riunione, dell'importanza della riunione a Nyon, è che il fair play finanziario è vivo e vegeto e sarà applicato, e i top club quelli storici, ripeto, quelli nobili che non fanno capo a sceicchi o russi, per intenderci, vogliono che sia applicato come forma di tutela per i loro stessi guadagni e per la loro stessa posizione di primato. Certo, non c'è dubbio. Cosimo Matera, buongiorno. Buongiorno a entrambi, è un piacere ascoltarvi entrambi. Allora, io non sono credit analyst e compagnia bella, eccetera, ma sono dottore commercialista. Volevo fare una domanda, mi scusi Caranzi, ma specificatamente a Bellinazzo. Certo. Trovata la legge, fatto l'inganno, se si trasforma la copertura delle perdite in fatturato della Saras, cito un marchio famoso, per sponsorizzazioni, cioè Moratti non copre più la perdita, ma si emette fattura all'Inter, a Moratti, per la pubblicità della Saras. Come siamo? Là non è più copertura di perdita, ma fatturato che aumenta. È contemplata un'ipotesi del genere, che sarebbe elusiva? No, no, lei ha toccato un tasto assolutamente dolente del fair play finanziario. Si è appunto creato quest'anno un caso simile per quanto riguarda il City, il Manchester City, perché la sponsorizzazione del City è stata fatta, anche dello stadio, da una compagnia aerea che fa capo alla Qatar Foundation, che è dello Sheikh Mansour, e quindi è stata additata come caso esemplare di aggiramento delle regole del fair play. Su questo il panel di controllo della UEFA sta ragionando, e proprio questi casi, insomma, dovranno essere evitati per evitare giustamente, insomma, una presa in giro collettiva sulle regole del fair play. Eccellente domanda, quella di Cosimo Matera, eccellente soprattutto il fatto che sia rivolto a te, non a me, perché se fa a me una domanda del genere siamo evidentemente rovinati. L'ultimo intervallo di oggi per le strade, e poi abbiamo ancora, credo, qualche ascoltatore che invece vuole intervenire più specificatamente sui temi calcistici di ieri, e però dobbiamo anche spendere un paio di minuti, Marco, sull'esempio virtuoso, cioè sulla Germania e sulla Bundesliga. C'è un ascoltatore che scrive: uffa, ma anche qui la Germania come modello è purtroppo sì. Beh, se un campionato cresce del 25% in fatturato in 5 anni, per forza di cose un modello. Evidentemente diventa il modello da seguire, quello di riferimento. Allora, torniamo in onda. In effetti si susseguono quei messaggi. Paolo scrive: uffa, anche lui uffa come uno ascoltatore di prima. Gigi, anche qua la Germania deve dare lezioni di buona gestione. Senta, io le risponderei che domani è il giorno della Shoah, no? Quindi ringraziamo chi dobbiamo ringraziare, che la Germania oggi dà questo genere di lezioni, no? Visto quelle che purtroppo siamo costretti a ricordarci di allora. Marco, e sono lezioni che nei numeri, e parliamo di calcio in questo caso, sono davvero impressionanti. Io ne ricordo agli ascoltatori uno solo: 42.101 spettatori di media per incontro, di media per partita. Beh, non c'è dubbio che i tedeschi abbiano fatto, a partire dai mondiali del 2006, ma ancora nelle ultime settimane, un lavoro enorme. Ieri appunto la Lega di Calcio tedesca ha fornito questi numeri confermano il sorpasso sulla Serie A e sulla Liga Spagnola, per cui con circa 2 miliardi di fatturato, 1 miliardo e 9 per la precisione, la Bundesliga è diventata la seconda Lega più ricca in Europa. Sta molto meglio della Premier League, se non guardiamo al semplice fatturato, ma alle prestazioni economiche medie dei club. Ben 12 club su 18 sono in attivo, l'intera Lega è in attivo per 52 milioni. In 5 anni, come dicevo all'inizio, c'è stato un incremento del fatturato del 24%, del 10% nell'ultimo anno. L'anno prossimo quindi si supererà la soglia dei 2 miliardi, la Premier a 2 miliardi e mezzo circa. Ma quello che è importante da dire è che l'indebitamento medio dei club tedeschi è sceso a 593 milioni di euro, che sembra una cifra enorme, ma se mettiamo insieme semplicemente i debiti di Milan e Inter arriviamo a 800 milioni. La Serie A, insomma, ha circa 2 miliardi e passa di debiti, per cui è un modello virtuoso basato su quel numeretto che abbiamo detto prima, 51% di rapporto tra fatturato e ingaggi, il fatto che ci abbiano appena rubato, tra virgolette, un posto in Champions League testimonia di come non soltanto... di come alla fine paghi. Come paghi, come la paghi. Sana gestione paghi anche dal punto di vista sportivo. Finisce a pagare anche da un punto di vista strettamente sportivo. Grazie allora. Grazie a voi. Grazie a Marco Bellinazzo. E un po' di calcio dopo, beh, è già calcio anche quello, dopo la data, il 26 gennaio di Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 gennaio 1936. L'Alessandria sorprende il Milan, allenato dall'alessandrino Adolfo Baloncieri, infliggendogli un umiliante 6-1, con 5 reti realizzate nel primo tempo. Per la formazione piemontese, diretta dal tecnico austriaco Karl Sturmer, il prestigioso successo è la svolta della stagione. La squadra in maglia grigia abbandona il penultimo posto e inizia una risalita che la porterà a chiudere il campionato a metà classifica, con gli stessi punti del Milan. Ma il vero exploit l'Alessandria lo realizzerà in Coppa Italia, dove raggiungerà la finale, persa a Genova contro il Torino per 5-1. Dove ne andrà a trovare queste date Nicola Filippone, sinceramente? Perché trovare Baloncieri, se parliamo del calcio d'anteguerra, è stato certamente uno dei nomi più prestigiosi di un'epoca appena precedente, quella dei due titoli mondiali della nazionale di Vittorio Pozzo, e fin lì pazienza. Ma trovare un 6-1 di un Alessandria Milan del 36, sinceramente bisogna aver voglia di dragarli, no? queste fonti a cui si abbevera Nicola. Daniele ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sono tifoso interista, volevo fare due considerazioni sulla partita di ieri. Volevo dire che non mi sono piaciuti assolutamente due atteggiamenti di due giocatori dell'Inter, Thiago Motta e Schneider. Il primo sembrava quasi che giocasse con la testa già, forse a Parigi, sembrava quasi lo facesse apposta, verso un pallone banale al limite dell'area e poi è entrato con una foga impressionante, calcio di rigore, una cosa che... Con una foga impressionante, mi scusi, su un avversario che ha davanti un muro di tre interisti. Palle girate, tra l'altro, certo. Quindi neanche i bambini lo si insegnano. Assolutamente. E un'altra cosa, Schneider, che io se fossi Ranieri darei 10 giornate a Schneider per la cosa che ha fatto, non lo farei più giocare, per almeno per un periodo, una punizione bisogna dargliela, perché se non vede l'arbitro, un gesto del genere è veramente assurdo, non ho parole. Vede, se io la ringrazio del suo intervento, Daniele, perché questo significa che per fortuna questo programma non lo ascoltano solo i tifosi, come dire, miopi, ma lo ascoltano anche i tifosi illuminati, i tifosi colti, e quindi è un ringraziamento particolare mio. Le dirò di più, magari esagero un po', ma le dirò di più. Se ieri sera, invece delle parole che abbiamo sentito all'inizio, Ranieri questo avesse detto, no? Questo, poi con l'esigenza ovvia di dover comunque difendere i suoi giocatori, perché non può permettersi di metterli alla berlina pubblicamente alla fine, ma se avesse parlato genericamente di errori commessi e di atteggiamenti sbagliati, anche psicologici nel primo caso o sul piano dei nervi nel secondo, avrebbe certamente fatto meglio. In genere da un allenatore come lui te lo aspetti, no? da un signore come Ranieri indubbiamente è, e invece ogni tanto evidentemente la sconfitta fa male anche alle persone che il fair play, in questo caso quello non finanziario, lo conoscono. Stefano ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo una sua opinione sul fallo che ieri ha fatto Schneider al riguardo di quello che ha fatto Balotelli con Manchester City. La differenza dove sta tutto qua? La volevo sentire da lei. La differenza è enorme, ne ho già parlato all'inizio, non facendo il paragone, la differenza è enorme, perché quella di Balotelli è preterintenzionale. Io non sono così convinto che Balotelli volesse davvero far male a quello, è possibile, diciamo pure che è probabile conoscendolo. Però Balotelli ha perlomeno l'attenuante di un groviglio di gambe e di una perdita d'equilibrio che potrebbero anche autorizzare quella cosa. Se lei rivede l'episodio di Balotelli a velocità normale, l'unica che conta, l'unica che esiste, perché la velocità della moviola è una truffa e non mi stancherò mai di ripeterlo, perché le cose accadono a velocità normale e come tali vanno giudicate, io ho qualche perplessità che Balotelli faccia davvero a posto. Paga la cattiva fama che ha, gli sta bene, così impara a farsi una fama migliore, comportandosi diversamente in campo e fuori, però non sono così certo che fosse colpevole. Schneider è indifendibile, perché a differenza di Balotelli, che ha queste attenuanti che le ho detto, Schneider entra a piede alto sulla tibia dell'avversario in leggero ritardo, proprio per timbrarlo, proprio per fargli male. Poi no, io non dico che avesse intenzione di rompere o di fare chissà che. Entra in un modo che l'arbitro non deve nemmeno pensarci un istante, lo prende, lo caccia fuori e scrive nel rapporto che ci vogliono almeno 3 giornate di squalifica per farlo meditare. Ranieri è arrivato vicinissimo alla sostituzione, ci diceva il cosiddetto bordocampista che continuava a ripetergli di star calmo. Evidentemente non bastava, perché non, si è eccitato, anziché avvilirsi per la porcheria che ha fatto il signor Snyder, si è ulteriormente eccitato, e questo chiama in causa il livello di stress evidentemente di cui questi giocatori soffrono. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Marco Bellinazzo che ha partecipato a questa puntata, a Franco Piantanita in redazione. Buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport. Yeah.